Melog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. Fluttuare sull'acqua, come camminandoci sopra. Ed è proprio quello che succede sul lago di Iseo con il Floating Pirs, l'opera galleggiante dell'artista bulgaro-americano Christo Vladimirov Yakavev. 3,5 chilometri di pontili galleggianti che sfiorano l'acqua dando esattamente la sensazione di camminarci sopra, su lunghe strisce arancioni che si estendono come raggi di sole collegando la terraferma con Montisola e l'isola di San Paolo. 200.000 metri cubi di polietilene ad alta densità sorreggono quest'opera larga 16 metri che è aperta gratuitamente ai visitatori 24 ore su 24 fino al 3 luglio. Secondo una stima arriveranno a Sulzano in provincia di Brescia più di 500.000 visitatori. Ricordo ancora quando Christo impacchettò Porta Pinciana, mi sembra fosse l'inizio degli anni 90. In famiglia scutevano tutti il capo, sembrava un sacrilegio, però tutti andammo a vedere. Io ancora non abitavo a Roma, ma avevo tutti gli zii, i parenti a Roma, andammo a vedere, era bello vedere questa sorta di impacchettamento di qualcosa che non ci eravamo mai resi conto che esistesse prima, era soltanto un vecchio muraglione attraverso cui si passava con l'automobile all'inizio di Via Veneto. Beh, la stessa cosa è accaduta questa domenica, quando folle oceaniche di italiani hanno voluto provare il brivido di camminare sulle acque. E che fosse un artista che si fa chiamare Christo a proporre questa sorta di esperienza mistica ha del significativo. C'è stato panico improvvisamente, il maltempo ha imposto alle autorità di fermare la folla, ci sono stati proclami, non andate a Iseo, attenzione, ci sono le strade bloccate, ma c'è questa sorta di fiumana umana che camminava sulla passerella gialla per arrivare a fare un giretto intorno all'isoletta di Beretta, dove hanno già oltraggiato quanto possibile i soliti ignoti, perché è un trafficante d'armi, un mercante d'armi, una persona che ha un'industria fiorente, che produce armi. Qualcuno dovrà pur produrre le armi. Beh, detto questo, era impressionante vedere quella folla che camminava sulle acque. Sembrava di vedere i 10 comandamenti di Cecil de Mille, sulla sua scena più fantastica, quando si aprono le acque e Mosè passa attraverso. Da bambino mi sembrava impossibile vedere quella muraglia d'acqua. Lì non c'era proprio le acque che si aprivano, ma c'era la gente che camminava come una immensa fila per arrivare a fare un giro e tornare dietro. Devo dire che l'esperienza era interessante, probabilmente ci sarei andato anch'io se fossi stato da quelle parti, però mi viene da riflettere su quelli che siano i richiami di massa. Io una folla del genere, delle file assurde verso il nulla, uguali, l'ho vista esattamente un anno fa, quando andai a frequentare Expo e vidi quella folla smisurata sotto il sole cocente, esattamente come domenica, stare in fila per vedere il padiglione del Kazakistan, dove non c'era assolutamente nulla da vedere. Ma l'esperienza era percorrere quel cammino comune, tutti assieme, fianco a fianco. Questo cos'è? Land art è una nuova forma, nuova, antichissima, ormai è vecchia, è ultradecennale, è datatissima forma di trasformare in opera d'arte delle azioni e delle modificazioni del paesaggio, senza che ciò poi non lasci traccia. Della passerella di Cristo non rimarrà nulla. Sarà dissolta, sarà biodegradata, rimarrà soltanto ricordo di aver camminato sulle acque. Ma qual è la differenza fra un parco a tema, fra un grande Luna Park e aver percorso e dire ai nipoti ho percorso un'opera d'arte? 800 24 00 24. A tra poco. Melog. Cronache meridiane. Andata. Bellissima, una bella esperienza, veramente eccezionale. Non dondola un po' troppo? No, no, va bene. L'ha fatta a piedi scalzi? Sì, Com'è? Sì, si sente, è soffice, si sente l'acqua sotto, bello, bello veramente. È bellissimo, bellissimo e soprattutto dopo possiamo definirlo un viaggio del genere. Com'è la sensazione? Bellissima! E poi non fa, avevo paura di aver freddo ai piedi, neanche freddo ai piedi. Queste erano testimonianze raccolte da Sky TG24, ma visto che la folla era veramente imponente e statisticamente qualcuno che quel giorno ha sostato ore sotto al sole, stretto gomito a gomito, i più arditi e i più fedeli all'indicazione dell'artista a piedi scalzi, gli altri con le scarpe, perché non avevano probabilmente il cuore di togliersi le scarpe in quella così stretta promiscuità, beh, statisticamente, dicevo, qualcuno di loro sicuramente ci sta ascoltando. 80024 0024, che ha compiuto la camminata sulle acque? Ne siete usciti rigenerati, diversi? C'è stata una catarsi, una palingenesi? Siete diventati qualcos'altro dopo aver fatto la passeggiata di Cristo? Diego, buongiorno. Diego è caduto, ecco, mi pareva strano che potesse restare più di 5 secondi in linea. Diego era il primo ascoltatore che aveva fatto la passeggiata, era lì pronto a raccontarci la sua esperienza. Nell'attesa che venga ripreso da questa sconquassata attrezzatura tecnica con cui mi sto arrabattando da più di un mese, e vediamo di sentire... Ecco, tornato Diego. Diego, buongiorno. Sì, buongiorno a voi. Ecco, perfetto. Lei non è caduto la passerella di Cristo, ma è caduto dalle nostre linee telefoniche. Diego, racconti cosa è accaduto nella giornata di domenica, una giornata che le racconterà suoi nipoti come epica. Ma è una giornata, è stata come anche quella di sabato, una giornata intensa, piena di gente, molte persone che sono arrivate, da quello che si dice addirittura sono state fermate prima per non arrivare tutti assieme, quindi doversi fermare ore e ore. Io sono stato ieri sera, una bella esperienza, un qualcosa no, di... Diego, bello. Non è così semplice, lei mi racconti perché c'è andato, dove ha avuto notizia che lì c'era qualcosa che bisognava attraversare per passare alla storia, dove ha letto che bisognava andare al lago d'Iseo? Ma guardi, io abito a qualche centinaia di metri dal punto dell'imbarcazione. Ah, quindi lei ce l'aveva sotto casa? Ce l'ho sotto casa, il punto di partenza, dalla sponda bergamasca, e è già mesi e mesi che si parla, quindi per noi non è una cosa nata ieri e quindi una cosa, una novità, lo sappiamo da tanto tempo. Ho visto le immagini tra sabato e domenica e avevo già prenotato, ho prenotato ieri, sono salito con la mia famiglia. Eravate a piedi scalzi, Diego, a piedi scalzi? Piedi scalzi, sì. Le scarpe dove tenevate, in mano? No, nello zaino. Ah, uno zainetto porta scarpe, quindi lei consiglia a chi andrà comunque a avere questa esperienza di portare lo zainetto porta scarpe? Ma sì, tanti se lo portano, tanti se le tengono in mano e... No, questo è... No, fare... voglio sapere tutto. C'è gente con le scarpe in mano, che cammina con le scarpe in mano. Ma sì, sì, chi le tiene in mano, chi le mette nello zaino. Alcuni quello... anche con i calzini, Diego, oppure proprio piede scalzo. Sì, anche quei calzini corti, quei calzini colorati. Ma ci si bagnano i piedi? Perché mi sembra una sorta di battigia, cioè ci si bagna continuamente i piedi, no? No, se non si va all'estremità in alcuni punti, sì, le estremità sono fatte leggermente arrotondate quando passano delle barche, i battelli, ci sono delle leggere onde, il telo si bagna, in alcuni punti ci si inumidisce i piedi se si va all'estremità, se si sta nel mezzo non ci si bagna. Allora, diciamo, prime indicazioni di percorrenza di questa opera d'arte: chi cammina al centro può avere anche i piedi asciutti, chi volesse il piacere del piediluvio sta verso l'esterno. Ma allora, si sta verso l'esterno, si vede il telo bagnato, anche se non è che ci si può proprio andare verso l'esterno, perché giustamente le persone preposte fanno leggermente spostare. Ah, quindi c'è un servizio d'ordine che mantiene le persone al centro, sennò uno potrebbe avere... Sì, consigliano almeno. Ma se uno vuole può fare il bagno, fare una corsa e tuffarsi, con un senso liberatorio? Penso di no. Non lo so, è proibito. Penso che non si possa fare questo, non glielo posso dire. No, chiedo informazioni, che voglio che sia un'informazione completa. Quanto dura tutto il giro attorno alla villa e tornare addietro? Allora, se si vuol fare il giro completo, e io non sono riuscito a farlo per una questione proprio logistica e anche per altre motivazioni, non sono riuscito a farlo, però solamente il giro dell'isoletta di San Paolo, con i due bracci che portano proprio, i due ponti galleggianti che portano all'isola, un paio d'ore lo si può impiegare, perché nel frattempo ci si ferma, ci si siede, ci si sdraia, cioè tutte sensazioni da provare, perché il movimento dell'acqua continua a muoversi in alcuni punti, e quindi è bello anche sedersi e rilassarsi un attimo. Prenderla con calma un paio di orette la si fa. Quindi c'è un piacevole senso di rollio, sì, stando sopra questa passerella. Sì. Uno addirittura si può... Addirittura, mi scusi, io ieri ho letto delle dichiarazioni dell'artista dove ha detto: se avete fretta non venite nemmeno. Beh, vista la fila di domenica, chi aveva fretta comunque era meglio che non ci andava, perché erano tanti, era proprio, sembrava la fila allo sportello delle poste la mattina, al giorno che danno la pensione, una cosa del genere. È vero, è vero. E questa coda, io ho visto, si forma dal punto della terraferma dove si sale, dalla parte di Sulzano, dove dalla terraferma si sale. Con i battelli è un po' più scorrevole. Resti in ascolto, Diego, resti in ascolto, perché oggi stiamo dando testimonianze di prima mano. Michele, buongiorno. Anche Michele è andato a fare la passeggiata sulle acque. Buongiorno Nicoletti, no, non sono andato io direttamente, sono andati i miei amici, però mi hanno raccontato delle cose. Ah, quindi è una testimonianza in diretta, racconti, sì, cosa le hanno detto. Sono cose assurde, nel senso che lei, visto che io ho sentito anche il sindaco, la sindachessa di Iseo, che l'hanno intervistata lì sulla vostra radio, ne magnificava l'evento. Che tra l'altro, beh, grazie, per loro è oro, tutta questa gente, infatti, di questo periodo, quando infatti, mai? Infatti, ma lei dovrebbe chiamarla e bacchettarla, perché non si può che... una navetta costi 20 euro, un parcheggio 10 euro, e poi vigili a segnalare le persone, a dirgli parcheggiate lì, e poi li hanno multati tutti. Non è una cosa, secondo me, è una cosa gravissima. Ah, c'è stata una razzia di multe? Cioè sì, non... sì, li hanno multati raffica. Tutti, praticamente li hanno fatti parcheggiare tutti su una strada, che tra l'altro era anche in salita, mi dicevano, i vigili stessi. Questi vigili si sono allontanati, sono arrivati dei loro colleghi, li hanno multati tutti. Ah, una sorta di sterminio di massa, l'hanno prima, sì, fatti mettere tutti con la, sì, macchina al muro, sì, e poi li hanno mitragliati con le multe. 28 euro di multa. 28 per cui, euro di multa. 28 di multa, 20 di navetta, 10 di parcheggio, siamo già a 68 euro. Più poi se uno si va a mangiare qualcosa, calcoli lei cosa gli costa questo evento. Diciamolo le cose. Ave, sì, Ave, va. Buongiorno. Ave. Buongiorno. Ave ha camminato sulle acque seguendo le indicazioni di Cristo. Sabato, il primo giorno. Sì, sono partita da Urbino, quindi sono andata appositamente. Ed è stata una... Perché si chiama Ave lei? Ave. Ave è un diminutivo? Sì. No, è il mio nome di battesimo. Ma come Ave Maria? Ave, come Ave Maria? Come Ave Cesare. Come Ave Cesare. Sì. Ma come mai l'hanno chiamata Ave? No, solo per capire. Perché i miei genitori me l'hanno chiamata Ave, perché a loro piaceva. No, c'è un motivo. Come Ave Ninchi. Sì, io non ho mai, io sono fra l'altro Ave Ninchi era di Pesaro, quindi io sono, no, sono nata in Urbino, la zona è quella. Quindi però, è un nome di quelle zone, Ave. Non ho mai conosciuto però nessuno che si chiamasse Ave oltre me, personalmente, direttamente, mai. Vabbè, Ave. Quindi va bene così. Quando la saluto quindi, dicono Ave. Lei, sì, Ave a lei, Nicoletti. E sono molto contenta di dire invece che questa esperienza per me è stata positiva al 100%, anzi il commento ad esempio di Filippo Daverio mi ha molto stupito, perché io sono partita apposta da Urbino, sono andata sabato all'inaugurazione. Quante ore ci vogliono da Urbino? Quante ore? Da Urbino, ma per arrivare lì noi eravamo in pullman, un gruppo, ci siamo organizzati molto prima e abbiamo impiegato, ma non tanto, sulle 4 ore diciamo, con una sosta. Anche, ma come chi siete? Una proloco, una parrocchia? Io mi sono aggregata a un'agenzia viaggi, però diciamo era un, poi abbiamo naturalmente aggiunto anche qualcos'altro, visto che facevamo un viaggio del genere ed è stata anche l'occasione per vedere. Comunque anche voi sapevate già in anticipo che ci sarebbe stato questa inaugurazione, questo evento? Io sì. Io tramite quale canale? Per vedere questo. Tramite quale canale? Io sono partita per vedere questo perché mi piacciono molto le opere dell'artista e non ho mai avuto l'opportunità di vederne una di persona e ci tenevo. Fra l'altro sono una geologa, c'era anche una suggestione, diciamo così, naturale, di ambiente naturale. Beh, era di plastica la passerella, tanto una geologa ha poco a che fare. Ma era straordinariamente inserita nell'ambiente naturale. Dal mio punto di vista era veramente un'idea. Allora, il culmine dell'estasi mistica di questo passaggio, qual è stato il momento? Allora, più bello? Il culmine è stato l'esperienza condivisa, perché la passerella è totalmente accessibile, quindi anche le persone che arrivavano in carrozzina, le persone con un passeggino, c'erano tantissime persone con il cane, bambini, persone. persone di una certa età. Qui c'erano cani, carrozzine, passeggini, tutto. Pieno di persone con un cagnolino o con un cane anche grande. Ed era molto bella questa. E i cani potevano anche fare la pipì sulla passerella? Nessun cane che io ho visto ha fatto la pipì, perché i cani solitamente sono molto educati. Beh, se gli scappa. Casomai qualche persona potrebbe, però no. Ha visto esseri umani fare la pipì sulla passerella? No, io ho visto persone molto emozionate. Fra l'altro noi siamo stati lì, poi ci siamo fermati proprio diverse ore, non abbiamo fatto file praticamente, perché è stata qualche fila, ma in realtà in questa esperienza condivisa anche la fila è stato un momento, no? Ecco, mi spiega l'emozione della collettività che cammina sulle acque. È come, sì, come andare al seguito di Mosè verso la terra promessa, qualcosa del genere. Io non sono una che ama particolarmente le folle, però devo dire la verità, io lì mi sono molto divertita proprio a stare lì nella folla. Anzi, le dico una cosa, alcune persone che erano con me ad un certo punto hanno preso un sentiero e sono andate verso l'interno e hanno trovato una serie di stand, me l'hanno raccontato, questa non è un'esperienza che ho fatto io, una serie di stand attrezzati per migliaia di persone perché si aspettavano che qualcuno entrasse all'interno. Anzi, hanno detto, ma all'interno, guarda, dove? All'interno, gente, dell'isola? All'interno dell'isola, sì. Casa Beretta, detto, sarebbe? Villa Beretta. No, l'isola Grande. L'isola Grande. La passerella, no, collega. E allora in quest'isola si aspettavano le persone che ci sono di solito in un fine settimana, ovvero persone che prendono. Qui c'erano panini con la porchetta, venditori di noccioline. Polenta con le aringhe, però insomma siamo lì, ecco. E quindi sono rimasti a bocca asciutta, venditori di polenta con le aringhe. Questi stand erano praticamente vuoti, non c'era quasi nessuno, infatti hanno detto dobbiamo vedere un po', segnalare. Però io capisco, anch'io non mi sono avventurata all'interno, io chiamo camminare, sono appunto pure una geologa, però era troppo bella questa esperienza proprio di condivisione dell'emozione. E quando Cristo è passato, perché poi lui in una barca è passato, ha costeggiato i pontili e ci guardava. Scusi, mi spiega una cosa, perché lei dice Daverio invece che Daverio e Cristo invece di Cristo, solo per capire. Facciamo Cristo e Daverio, non importa. Ah, no, Cristo, Daverio, guardi, non so mai come pronunciarli, lei mi prende... Beh, cioè, bulgaro, non so americanizzato. Cristo, sì, potrebbe passare. Facciamo, ma per me non è un problema. Mi scusi. Va bene, Cristo va benissimo. Però quando io mi chiedevo, infatti in pullman, dicevo proprio chissà che cosa farà adesso lui, no? E cosa ha fatto dalla banana? Mi spieghi questa esperienza, Cristo che appare sulla barca improvvisamente. Sì, esattamente. Perché vi siete messi tutti in ginocchio, che avete fatto? Ma no, sai che cosa? Io prima dicevo, che cosa farei io se fossi l'artista? Allora nel pullman qualcuno diceva, se ne andrà. Ha realizzato la sua opera, già pensa a qualcos'altro. E invece io dicevo, caspita, io starei lì a vedere l'effetto che fa sulla gente. E infatti lui è passato, ci ha guardato, ci guardava. E io pensavo, deve essere bello aver fatto felice tanta gente. Deve essere bello, perché gli assicuro che eravamo contenti, non so come dirlo, eravamo contenti. Eravate grati a Cristo che vi ha dato questa esperienza. Eravamo grati. E com'era vestito? Sempre con quella giacchetta rossa, mughinizzato? Sì, era. Sempre vestito di rosso. Sembra Mughini, sembra. Quando ho visto la Boschi con Cristo, sembra Boschi Mughini, invece era Cristo. No, era lui. Però le dico, tutte le persone con cui ho parlato c'erano anche molti giovani, molti ragazzi. E come teneva le braccia Cristo quando passava con la barca? Aperte verso l'alto? No, in quel caso no, le teneva accostate al corpo. Sì, mani è giunte. Stata una visione abbastanza fugace, deve essere. Ma dietro la schiena come un umarelle, solo per capire. No, non era come un umarelle, era, diciamo così, più un comandante al timone. Sì, resti lì, devo dare purtroppo... Sì. Necessariamente la linea all'informazione della borsa, devo dire, stiamo facendo un reportage senza precedenti, mai, senza esserci stati, avremmo avuto informazioni così capillari sulla vera esperienza mistica di questo fine settimana, dopo naturalmente i ballottaggi da alcune città italiane. A tra poco. Bye bye Europa? Londra decide, dentro o fuori. Il 23 giugno il Regno Unito decide se rimanere nell'Unione Europea o lasciarla dopo 43 anni. Comunque vada, il referendum britannico ha già prodotto un terremoto che scuote il progetto europeo. Fino al 25 giugno, Radio 24 vi racconta come si è arrivati a questo punto, chi rischia di più e cosa accadrà dopo il voto. JP Morgan Asset Management vi presenta Melog, cronache meridiane. .800 24 0024, nella prima parte di questa trasmissione abbiamo avuto uno straordinario reportage fatto all'impronta da parte di alcuni nostri ascoltatori che hanno compiuto l'esperienza trasmutatoria di fare la passeggiata sulle acque grazie all'opera di Land Art di Cristo, che ha fatto una passerella gialla nel lago di Iseo che passa attorno all'isola. Migliaia e migliaia di persone, affratellate dallo sciabordio del lago, hanno visto qualcosa che mai nella loro vita sarebbero sognati di vedere. Tommaso Labranca, buongiorno. Buongiorno Nicoletti. Tommaso Labranca, ricordo, autore del libro Vraghinaroda, di cui abbiamo parlato precedentemente in qualche trasmissione fa, viaggio allucinante tra creatore, mediatore e fruitore dell'arte, edizioni 20.090, libro che mai più fu più profetico. Tu non avresti mai immaginato, scrivendo questo libro, che è possibile acquistare in rete da una settimana, due settimane circa, di questo straordinario capitolo. Dimmi qualche tua impressione a caldo, ti ho fatto ascoltare in silenzio, dalle testimonianze di costoro che hanno avuto un momento, un'illuminazione nella loro vita, che non ci fu sindrome di Stendhal simile a dare una sorta di sensazione che la vita sarebbe cambiata e non sarà mai più la stessa dopo questa esperienza. Beh Gianluca, io quando sento queste cose dico, ma io sono un genio, cioè un profeta, non lo so, io scrivo di cose che poi succederanno. E infatti è vero, l'hai annunciato questo, è vero. Devo dire. Io ho parlato di questa categoria di persone che ho chiamato le Sant'Exuperine scalze, queste donne, soprattutto donne, anche uomini, ma soprattutto donne prese dal sacro fuoco dell'arte. Scalze veramente, hai visto? Sono scalzate. Ma è come in questo caso scalze. Tu non avresti mai pensato ci sarebbe stata un'opera d'arte da frequentare scalzi? Sì, ma quello che voglio dire, cioè, è proprio, noi viviamo in un mondo che si pasce, che gode del dirsi ateo, capisci? Anche la signora prima, cui ho detto Ave Maria, no, Ave Cesare, per carità. Perché, o Ave Ninchi, è la stessa esatto, cosa. Esatto, perché l'arte è la nuova religione, è la vera religione, cioè andare scalzi su questa passerella tutti insieme, cosa ricorda? Le vecchie processioni della Madonna Pellegrina o Flambeau, no? Accendevi le fiaccole e scalzo camminavi in processione in onore della Madonna. Ora la Madonna non c'è più, c'è l'arte, c'è Cristo, c'è questo artista che tra l'altro meritevole, da tanti anni lavora, e questa volta ha fatto qualcosa di che io trovo grandioso, perché ci ha fatto capire, cioè, uno dei scopi, quando gli dicono che senso ha quest'opera, il senso è farti capire che per quanto tu possa intervenire sulla natura, la natura è il meglio. Diciamo la verità, Tommaso, in questo caso il genio assorbe in sé quella sorta di retrogusto, di paraculaggine che tutti vedremmo in questo gesto. Sì, sì, però capisci, cioè, non so quanti poi ci sono arrivati a questa cosa, cioè, perché poi alla fine l'importante è quello, no? Oh, come era bello, ha detto la signora, essere tutti insieme, ma vai al parco, una giornata qualunque, vai al parco, trovi mamme con i passeggini, persone con i cani, e invece no, se vai al parco comincia a infastidirti quello che gioca con la palla, a infastidirti il bambino che piange, perché? Perché non c'è la sacra benedizione dell'arte, non c'è l'invito ad andare per condividere questa cosa, che cosa non si sa. Per cui è veramente brutto il modo in cui viene fruita quest'opera di Cristo. In questo modo, capisci? In un modo veramente anche becero alla fine. Oh, ci sono state, mettiamo un'altra crocina sulle cose da fare. Ma guarda che le processioni di paese, ma anche nelle grandi città, non è che non siano becere, e quanto di più becero c'è, onestamente. Il sacro fuoco della passione religiosa non ci fa vedere l'aspetto becero se lo condividiamo, ma se solo per un attimo ci astraiamo da il partecipare mistico alla processione, ci rendiamo conto che qualcosa è molto becero. Pensa ai battienti, quelli che si frustano, sì, si sanguinano, esatto. Si portano dei ceri sulle spalle, ma è una cosa ridicola in sé. È ridicolo, ma è anche ridicolo andare lì e piangere quasi per la bellezza. Ma quale bellezza? Allora, il lago di Iseo è bellissimo, è uno dei posti più deliziosi d'Italia. Non ci andava mai nessuno, perché dovevano andare tutti, non so, a Sharm el-Sheikh piuttosto che a Ibiza, piuttosto che nella Terra del Fuoco. Se tu dicevi vado sul lago di Iseo, ti ridevano. Ti davano dello sfigato, sì. Ti davano dello sfigato. Adesso hanno scoperto le bellezze del lago di Iseo. Non sa tra nessuno che Monte Isola è l'isola alla costa più grande d'Italia. Adesso l'avranno imparato, non lo so. Però, capisci, c'è bisogno veramente sempre della indicazione di qualcuno che ti dice dovete fare questo, e loro si mettono in coda. Volevo farti riflettere su altri due particolari, mi serve. Allora, l'apparato che aveva preparato il comune di Iseo, i vigili, è fantastica la testimonianza, che fanno parcheggiare tutte le macchine, come metterle al muro, e poi le multano a raffica. Grande occasione, quando mai 50.000 macchine tutte assieme? Seconda cosa, i panini con la porchetta, cioè con la polenta, con la ringa, pronti nell'isola che non ci va nessuno. Avevano preparato una festa di paese, una sagra paesana, il contorno di ogni festa del santo patrono, invece illuminati dalla partecipazione a un evento artistico, quindi era un'opera d'arte vivente, che ne dica Sgarbi, quindi naturalmente non hanno bisogno di mangiare, sono puri spiriti, hanno già passato i bisogni corporei, niente aringa con la polenta. È il Don Giovanni di Modena, sai cosa dice quando si presenta la statua alla fine, no? Non si pasce di cibo mortale che si pasce di cibo celeste. Vado lì a pascermi della bellezza col B maiuscolo, dell'essere un tutt'uno con l'arte con la A maiuscola, ma chi ha fame di salmonelle, di salsicce, di panini. Tutto il resto è normale, perché anche quando organizzavi appunto la festa del patrono, piuttosto che la processione, arrivavano i venditori di candele e i venditori di arti a forma di fatti di cera, sai, quelli di ex voto, magari quelli di muscolini, di porchetta, ecco, di panini. Di porchetta, è normale che ci sia tutto questo giro d'affari intorno. Per di più, pare non abbiano speso una lira, perché tutto è stato fatto a spese dell'artista che ha i suoi modi poi per rientrare, quindi è una festa per tutti. E io la trovo alla fine una cosa positiva, al di là di tutto, perché comunque il fatto che ci vada tanta gente e va bene. Se non ci fosse andato nessuno, saremmo qui a fare una trasmissione su gli italiani sono i soliti, non sanno apprezzare le cose che si offre, non sanno apprezzare l'arte. Insomma, come te muovi, te fulmino. Trovi dei punti in comune con il parallelismo ardito, lo confesso, che ho fatto all'inizio, fra la fila verso il padiglione del Kazakistan e la fila per il lago d'Iseo? Assolutamente sì, sotto tutti i punti di vista, perché ti avevano detto che dovevi andare a vedere il padiglione del Kazakistan e tu ci andavi, mentre era molto più divertente soltanto camminare sul decumano, vedevi facce di tutti i tipi, persone assurde. I padiglioni erano più belli fuori che dentro all'Expo di Milano l'anno scorso. Dentro non c'era la mazza, oggi si può dire. Dentro non c'era niente, diciamocelo, non c'era. Erano niente. Vuoti, sì. C'era niente. Dei monitor c'erano. Sì, cioè, vedevi dei monitor fuori, vedevi il padiglione della Cina con questa distesa di fiori, era bellissimo da vedere. Perché devo stare in coda per entrare e vedere due monitor? Non si sa. Ecco, per cui è sempre così. Stranamente, a volte ci sono dei casi in cui l'italiano non riesce a stare in coda alla posta. Se tu sei lì allo sportello e perdi un attimo in più, senti sbuffare dietro. Quando si tratta di prendere il gelato da Grom oppure fare la fila sul lago di Iseo, allora no, perché c'è un motivo dietro. Devo farlo, devo partecipare. Allora fermiamoci un attimo solo. Scusami, Tommaso, ci sono altre due esperienze mistiche che dobbiamo registrare. Matteo, buongiorno. Buongiorno. Come è cambiata la sua vita da ieri? Ma non più di tanto, però è stato interessante comunque partecipare e aver camminato sulle acque. E al di là di tutto, credo che un conto sia tracciare una linea di colore giallo o il colore che si preferisce dire su una mappa oppure su Google Map in via digitale, e un conto sia poi passare alla realizzazione. E vista l'organizzazione che ieri ho trovato ad Iseo, mi pare che ci sia ben riuscito. Lei è andato solo, Matteo? No, sono andato in compagnia. Quindi è un'esperienza da fare comunque collettivamente, da soli non ha senso. Ma da soli si può anche andare, però in compagnia sicuramente ci sono punti di vista differenti, questo sì. Cioè era con una donna, voleva dire lei? Sì, sì. Quindi tenersi per la mano, camminare sulle acque, avere questo l'ondeggiamento cosa dà? Dà un senso di perdimento, di estasi, quasi una euforia? Ci si sente un battello ebro che si cammina sulle acque quasi? A parte l'ondeggiamento no, più che altro perché sei sempre attorniato dalle persone, quindi non è che perdi di vista l'orientamento, questo no. Però a parte il fatto di camminare mano nella mano, visto che praticamente tutti utilizzavano dallo smartphone alla fotocamera, c'erano poche persone mano nella mano, se non i genitori che tenevano i bambini, quello sì. E visto che la domanda dell'ascoltatore di prima che ha fatto lei, se ci si può tuffare, direi proprio di no, visto che ci sono comunque molte persone di servizio d'ordine che appena ti avvicini al limite della passerella ti bloccano gentilmente, ti dicono di non avvicinarti all'acqua. Tommaso Labranca, mi è venuta proprio spontanea, vediamo di fare un parallelismo tra le bateau ivre e questa passeggiata in cui si è battelli ebri a tutti gli effetti. Sì, ebri appunto di arte, però alla fine vedi, la gente si diverte, nel senso che in questo caso di arte relazionale in cui devi interagire con l'opera, ne ricavi una sensazione, ne ricavi un'esperienza che poi appunto vuoi raccontare e devi immortalare con le foto, naturalmente, per dimostrare che c'eri. Ti ripeto, non c'è nulla di male, anzi, è una cosa veramente è piacevole, è bello che sia stata fatta lì, capisci, in Italia, in quel posto, perché poi magari l'avessero fatta, ti ripeto, su un lago della Carelia, avrebbero detto, ah ecco, in Italia non si fa mai niente. Bisogna soltanto avvicinarci a queste cose con un po' di, non dico intelligenza, ma anche di consapevolezza, cioè non vai al Luna Park, non è il Luna Park, è un'opera d'arte, un'opera di ricerca di uno dei più grandi artisti degli ultimi decenni, e devi sapere che cosa ha fatto questo artista. Questo artista nascondeva le cose e tu te ne accorgevi dopo delle cose nascoste. L'hai detto tu all'inizio, quando ha coperto questo tratto di muro romano, siete andati tutti a vederlo. Che esiste, si chiamava Porta Pinciana, quel rudere era Porta Pinciana. Fermo un attimo, dobbiamo dare la linea. Ho citato Le Bateau Ivre di Arthur Rimbaud, e l'inizio è proprio quello che dà senso alla camminata sulle acque. Mentre discendevo lungo fiumi indifferenti, in questo caso un lago indifferente, ma vidi di non essere più in mano ai manovranti. La vera sensazione d'estasi è che queste persone hanno avuto la sensazione per un paio d'ore di non essere più in mano ai manovranti. Questo probabilmente è il motivo di riflessione che darò a Tommaso Labranca tra un istante. Melog. Cronache meridiane. .800 24 0024, stiamo raccogliendo testimonianze e riflessioni sulla camminata sulle acque, la vertigine di non essere, almeno per un periodo limitato, più in mano ai manovranti. Questo è il senso del bateau ivre, questo battello ebro che improvvisamente si incammina senza guida. Tommaso Labranca, velocemente, so che devi andare via. Ci può essere anche questo senso di libertà, di liberazione, di essere dei battelli ebri? Nessuno ti manovra più per due ore, ma sei manovrato dal grande battage, per cui parti da Lucca con il pullman della parrocchia per andare a fare il viaggetto. Beh, puoi anche non farlo, se uno vuole può anche non farlo, cioè non sono le adunate oceaniche del Duce dove dovevi andare per forza, se tu non vuoi andarci non ci vai, poi la gente ci va perché appunto se ne parla, vuole andare a vedere di cosa si tratta e così via. Io penso che trovarsi sulla passerella, io non l'ho provata e non so neanche se riuscirò ad andarci. Beh, tu sei vicino, dai, che ci metti? No, vabbè, sono altre cose da fare nella vita, mi piacerebbe andarci di notte poi, immagina. Ma è chiuso, di notte è chiuso? No, se si può andare? Il tempo è bello aperto, si può andare anche di notte, se il tempo è bello, figurati con la luna che ancora ti senti meno manovrato in quella... Pensate, questa era la notte del solstizio e la luna piena, per la prima volta da 50 anni, pensa, sarebbe stato un rituale satanico-massonico andare sul lago di Iseo a quest'ora, questa notte. Peccato che nessuno ci ha pensato, o forse ci hanno pensato. Andarci noi, dai. E comunque ti sentirai veramente libero, perché ti trovi in un posto sulle acque dove nessuno mai riesce ad andare, perché se no appunto col battello, il battello degli orari, il battello ti distacca dall'acqua, qui sei veramente a contatto con l'acqua. Quindi l'intenzione di Cristo è stata perfettamente realizzata, cioè portarti nel centro, cioè lui interviene sulla natura per portarti dentro la natura. Speriamo che poi, come dire, la prossima volta che faranno qualcos'altro, non dico di questo tipo, ma comunque di artistico, non lo snobbino, perché poi magari c'è l'Italia che gioca qualche partita in televisione. L'unica cosa che posso dire è che bisogna vivere questa cosa come un gioco, senza farsi sovrastare da queste cose della bellezza, del sono al contatto con l'arte, mi sto rotolando nell'arte, perché è plastica, è acqua, è erba. Un'isola e un lago. È come andare all'acquapark e fare lo scivolo e finire nella piscina. Grazie Tommaso Labranca. Prego, grazie a te. Giuseppe, buongiorno. Ciao Nicoletti. Il discorso è come il graffio di Fontana. In sé per sé non è nulla, ma se ti emoziona è qualcosa. Allora io sono partito dal tuo stesso punto di vista. Avevo letto l'articolo di Daverio la mattina stessa, domenica, la chiamava Sagra di Paese. Siamo andati lì, partiti da Ferrara. Sì, devo dire, ha rosicato un po' tutti i grandi Soloni, pure Sgarbi, ha detto una cosa inutile, è andata a vedere le opere d'arte nei paesini, ma chi se ne sbatte? È molto più divertente camminare sulle acque, certo. Te la faccio vivere con me, noi andiamo prima in Franciacorta, mangiamo, beviamo, forse andremo a vedere il ponte. Vi imbriacate per bene, perché avete bevuto, naturalmente. Ubriacato no, una bottiglia, però non era, vabbè, non di quelle buonissime, diciamo, e quindi un po' delusi dal vino, però il vino Franciacorta è eccezionale. Al che arriviamo ad Iseo è assolutamente all'opposto dove c'è il pontile, quindi c'era tutto il problema di arrivare poi a Sulzano, col grande casino che c'era. Genialata, io sono pugliese, andiamo al bar, c'è qualcuno che ci accompagna, troviamo il motoscafista gentilissimo che per la modica cifra di 20-25 euro a testa ci porta lì. Andiamo lì, quindi col motoscafo, la vista che abbiamo è dal mare, è dal lago, scusami. Ecco, dico il mare perché la canzone che avevo nella testa era Com'è profondo il mare di Lucio Dalla, perché il lago era profondissimo, raggiunge fino ai 100 metri lì, è profondissimo. E quindi arriviamo lì con la barca, questa immagine di questa linea arancione, proprio in fondo, bellissima, come fosse una cosa proprio figa. Arrivi lì, ti lascia sul pontile, noi con tutta tranquillità ormeggiamo, andiamo lì sulla banchina, e finalmente siamo su questo ponte, dove la gente è diradata, non è così ammassata come uno intende. Noi eravamo però nella zona che portava a San Paolo, all'isola di San Paolo, e quindi non nella prima parte, quella che va da Sulzano, ma l'altra, dove la gente stava bene, si stava larghi, i pontili ospitavano tutti, in più erano bloccati perché in tutta la mattinata c'erano stati dei lavori e non si poteva andare oltre una certa zona, quindi all'isola di San Paolo non si poteva arrivare fino alle 7, noi siamo rimasti lì dalle 4 alle 7, non si è potuti andare. C'erano tutti i problemi lì col battello, questo balletto, battello stracolmo che gridava mi raccomando mantenete la calma, c'erano state grida, urla, carabinieri, insomma. Casi di panico c'erano stati fra la folla? Momenti... sì, c'era un po' questa situazione così. Estasi mistica può essere, momenti di possessione, non lo sai, sì, che può succedere. C'era il metal detector, ci hanno controllato il metal detector, noi eravamo col cane, ci hanno fatto infilare la museruola al cane. La bambina aveva meno di 5 anni, non poteva salire, ma poi all'italiana è salita. Quindi avete mentito sull'età della bambina, hai detto che ne aveva 15. Abbiamo mentito spudoratamente ridendo. 15 avete detto. Tenevamo più di lui. Qual era l'età minima? L'età minima qual era? 5 anni, se non sbaglio. E la tua figlia non li aveva 5 anni? 3 e mezzo, 4. Vabbè, hai detto 5 anni. Ho detto sì, vabbè, ma si era capito, ma non c'era problema. Per questo mi ha stupito quando la signora ha parlato di carrozzini, perché io invece non ne ho visti i carrozzini, sì, di bambini. Posso dire una cosa? Io con profondo rispetto, tu immagini quanto posso... Sì. Mi sembra un po' pericoloso, a meno che non ci sono delle garanzie, no. Perché se la carrozzina prende il via lungo la passerella, devi metterci, sì, le galleggianti per avere sicurezza. Secondo perché... me le carrozzine non ci possono andare, poi che ci siano passate è un altro discorso. No, ma secondo me non però hanno diritto le persone in carrozzina a fare questa esperienza. Con le dovute norme di sicurezza, certo, ma lasciare una carrozzina a se stessa in un posto così, bisogna ci siano delle persone perlomeno che ne salvaguardino l'incolumità, sì. Perché... Cioè, comunque c'è un ci sono polizia, protezione civile, ci sono queste guardie, tipo guardie giurate sul pontile. Cioè, se qualcuno cade, dopo un minuto, 30 secondi arriva qualcuno, questo te lo assicuro. Ma fermo un attimo, sentiamo Roberta. Roberta. Sì, pronto? Sì. Sì, io ieri sono andata a vedere a Iseo l'opera d'arte. Da dove? Da dove è partita, Roberta? Da Varese. Io avevo già da tempo letto di quest'opera d'arte e non ricordavo più quando fosse il periodo in cui effettivamente veniva pronta. Domenica ho letto su un giornale che c'era stata fatta l'inaugurazione il sabato e io mi sono detta, ok, domani mattina ho preso le mie tre figlie e le ho portate a vedere. Con tre figlie, mamma e tre figlie? Mamma e tre figlie, di cui una di 8 anni, una di 6 e una di 2 mesi e mezzo. Quella gli hanno fatto passare la bambina piccola? L'ho tenuta tutto il tempo nascosta, con una fascia. Ma quindi la coperta... Anche se l'avesse avuta sul passeggino, perché avevo anche il passeggino. Ma sotto i 5 anni, ha sentito, sotto i 5 anni era proibito. Come l'ha dissimulata la figlia? A me nessuno ha detto niente dei 5 anni. E quindi... Quindi non passa la bambina di 3 anni, passa quella di 2 mesi e mezzo. In ogni caso ho trovato una grandissima collaborazione da parte di tutte le persone che lavoravano e che lavorano per quest'opera d'arte, c'era tantissima sicurezza, tantissimi sorrisi e io ho preso questa decisione perché ho intenzione, perché sono completamente contraria a quella prima parte dell'intervento del suo ospite, la Branca, il quale... non lo so, io non ho preso l'esperienza come per dire metto la crocetta, ce l'ho, non ce l'ho, l'ho fatto, non l'ho fatto. Io sto cercando di insegnare alle mie figlie l'importanza del bello. Ti piace o non ti piace? No, ma Roberta, è accettabile. Lei ha voluto dare ai suoi figli questa occasione per essere migliori. È come portarle a Lourdes o una cosa del genere. È un momento che si passa in un luogo toccato dalla grazia, in questo caso è la passerella di Cristo, e le sue figlie usciranno migliori. Grazie, alla prossima.